noia, è il nostro solo mestiere. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Combattiamo il terrorismo in prima linea. L'Italia è in prima linea nel combattere il terrorismo, sul piano militare, sul piano politico, sul piano culturale. Dobbiamo farlo questa battaglia, ovviamente anche in Libia, anche qui di fronte alla minaccia terroristica che cresce a poche ore di navigazione dal nostro paese. Io penso che l'Italia debba fare la sua parte. Siete pronti, cari ascoltatori? Perché a marzo mi sa che si va in guerra. Poi adesso diranno che l'ONU, una missione di peacekeeping, che... ma oggi lo scrive giusto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Cioè siamo l'Europa, non l'Italia, un continente ormai che rifugge il concetto di guerra. Laddove c'è una forza che ci oppone invece una violenza molto forte, scrive Galli della Loggia, bisognerebbe tornare al concetto che ci sono delle situazioni in cui bisognerebbe opporre una forza maggiore, una violenza maggiore, fare una guerra. Può succedere, è brutto, è deprecabile, è spiacevole, è fastidioso, non lo vogliamo, ma a volte c'è qualcuno che la guerra te la vuole buttare addosso, e allora che fai? Comunque pare che a marzo la situazione è quella della Libia, ormai allo sbando da mesi, qui anche qui Gentiloni ce l'ha detto una settimana fa, se l'ONU decide noi siamo pronti a un'azione militare. Sotto l'egida di queste cose, risoluzioni, peacekeeping, queste cose, la verità è che si va lì, come dire, a ristabilire un certo ordine, perché sennò succede come ieri, succede che partono gli scafisti coi gommoni e poi la guardia costiera arriva, prende i migranti, li prende e si presentano un barchino con quattro armati di Kalashnikov alla guardia costiera italiana, ai nostri militari, a dire ci ridate il barcone? Non è che l'hanno detto con questa gentilezza, grazie, e si sono ripresi pure il barcone che hanno svuotato, cioè hanno fatto il trasbordo dei migranti e poi con Kalashnikov in mano si sono ripresi anche il barcone. Questo sta succedendo. Comunque qui sono le 6:34 minuti, questo è il tema che vi pongo, bello di lunedì appena svegli, siete pronti ad andare in guerra? Questa uno si sveglia lunedì già assonnato, dice io già vado nel traffico, già mi tocca pure andare in guerra, non so cosa è peggio. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, saluto Lorenzo Nespoli in redazione. E il nostro Peter Bescapè è tornato l'alpino. Ti senti un po' gagliardo con questa? Dai, forza, apriamo il Parlamento, che qua intanto, mentre si va in guerra, inizia Adesso vado a prendere un caffè. 94esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. È lunedì, mando anche un abbraccio a Rossella Brescia, così, nostra cara amica, che arrivi a tutta RDS. E voglio salutare un uomo annoiato dal calcio, Federico Novella. Buongiorno. Che è solissimo! E non può sbagliare! È il gol dell'1-1, ancora Big Mac! No, non ci si annoia mai in realtà, dai. Ti ringrazio, hai esultato sul gol di Maccarone. Tu ogni tanto vorresti annoiarti, sì. No. Vabbè. Però ho letto di questa cordata thailandese. Sì, sì. Diventiamo il Milan con i noodles. Insomma, tutti. Esatto. Vabbè. Ridi. Una Juve che fa pure apposta non vincere per non annoiare e ammazzare il campionato. Vabbè, ogni tanto per errore buttiamo la palla nella nostra porta, così per ravvivare un po' la. Non ho visto niente, non mi interessa il calcio. Fammi salutare insieme a Federico Novella, fatevi salutare Lia Celi. Buongiorno Lia, eccoci qua a tornare. Buongiorno e grazie di avermi fatto iniziare la giornata con l'armata Brancaleone, capolavoro immortale. Ah, pensavo che volessi già arruolarti contro i ceffi, dei brutti ceffi dello Stato Islamico. Ma no, noi abbiamo l'arma segreta, il volo che ha vinto Sanremo, la pattuglia acrobatica dei tenori, le frecce tritenori che metteranno in ginocchio. Mi citi quello. È un volo di linea, però. Che io ho trovato a pagina 6. Io vi giuro che il titolo di pagina 6 del giornale è questo. Ma no, pagina 25, pagina 6. Il volo conquista l'Italia. Ma l'Italia prenderà il volo? Segue dibattito, ovviamente. Questa è la canzone, mamma mia, io non so niente, è la prima volta che la sento, fatemela sentire un po', è la prima volta che non ho seguito niente, no, ho seguito. Io che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua. Peter ha detto è bella quella mia. Guarda, è l'ordigno fine di mondo, credi? No, è questa che ha vinto Sanremo. Federico, confermi? È questa? Sì, li uccideremo di noia uno dopo l'altro. No. Sì, è questa. Cioè, li uccideremo così quelli dello Stato Islamico. Esatto. Gliela manderemo sulle onde. Praticamente con una voce tenuta. Mandatela subito a Radio Racca da diffondere in tutte le onde corte, altro che Radio Londra. Se sono a sud di Roma faranno inversione subito, appena la festa. È così. Esatto, vabbè, io ho visto solo un po' Anna Tatangelo nella sua mise un po' sfarfalleggiante. E poi... No, era Concita Wurst che si era rasata. Su Twitter vedete, è stato unanime. No. Separati alla nascita. Qua ridiamo, qua scherziamo, ma siete pronti? No, il tema in realtà è serissimo. Oggi finalmente le pagine dei giornali sono dense di cose, a parte di quello che è successo anche a Copenaghen, e poi tra un po' a Lia Celi vorrò chiedere una cosa, lei che vive anche di satira. Oh Federico, qua sì. Si scherza poco, perché la guerra è alle porte veramente. Fermiamoci e partite, come si diceva. Sì, no, mi trovo un po' inutile il dibattito, nel senso che da 2000 anni a questa parte, quando l'Italia entra in guerra, lo fa perché lo decidono gli altri. E quindi è giusto dire sì, se andiamo in guerra sotto l'egida dell'ONU, sì. Allora bisogna aspettare che decida l'ONU, tanto se l'ONU decide di intervenire noi non possiamo rifiutarci, sì. Se non decide di intervenire non possiamo fare da soli, anche perché non abbiamo gli strumenti per fare da soli, anche se sono al di là del mare. Poi c'è la Costituzione, sai, no? Poi c'è la Costituzione, pugna la guerra. Quindi è inutile star qui a fare finta di essere insomma gli americani o di fare l'armata Brancaleone, bisogna aspettare che qualcuno decida. Poi insomma il fatto che abbiano fatto questo appello, siamo a sud di Roma, un po' preoccupante. Speriamo trovino traffico sul raccordo. Ci viene da buttarla così, esatto. Buttare ridicolo. In realtà la questione è questa, cara Lia Celi, tu che ne pensi? Si va in guerra? Ma intanto io vorrei sapere chi parla di egida dell'ONU se sa cos'è l'egida, questa stramaledetta egida di cui sento parlare da sempre. Questo vocabolo misterioso. Beh, insomma, d'altra parte poi le reminiscenze di Tripoli, Bel Suol d'Amore sono sono stranamente meno antiche e obsolete di quel che sembra. Chissà se qualche bella canzone forse ci vuole, qualche bella canzone guerriera che ci può aiutare, non lo so. Però c'è sempre questo dibattito. Adesso pare che tra l'altro sia Berlusconi sia anche Sell pare che abbia detto, ovviamente se c'è l'ONU che interessi, queste le solite 50 premesse, però è pronto. Solo il Movimento 5 Stelle è in questo momento schierato contro un eventuale intervento. C'è stata la svolta muscolare di Sell in Parlamento, adesso che hanno fatto pugni colpitissimo tutti, è vero, hanno fatto le prove, hanno rinnegato la non violenza. Infatti dobbiamo benedire il Mar Mediterraneo, perché se non ci fosse il Mar Mediterraneo a separarci dalla Libia probabilmente ci avrebbero già invaso e noi staremmo qua a discutere ancora. Sì, no, ma la guerra forse è meglio di no. Però la questione è chiara, Federico, cosa fai? Parti, vai, mandi dei missili, cioè parti con nel senso, come al solito la situazione è poco chiara e cioè nel momento in cui siamo l'Europa, che facciamo? Facciamo come la Francia, no? Che è partita in Libia. A me piacerebbe, la Francia ha una storia diversa, a me piacerebbe che prima ancora della famosa egida dell'ONU, che naturalmente tutti noi ci interroghiamo sulla natura di questa egida, almeno l'Europa parlasse con una voce sola, però sappiamo bene che uno dei mali dell'Europa è che è unita solo quando vengono a batter cassa, poi quando si tratta di parlare diciamo politicamente, militarmente, l'Europa non esiste di fatto. Comunque, l'egida, eccoci qua, cara Lia Celi, è lo scudo di Zeus. È un capo indossato da Atena. Ah, quindi è una cosa di abbigliamento, quindi ecco perché gli italiani è una griffa, li uccideremo così con l'alta moda, con l'alta moda e con il volo. Si intitola il volo. Il volo parla con una voce sola, canta con una voce sola. No, tra l'altro Lia Celi, mi dispiace, ma tutte le volte ci risentiamo anche in questi momenti in cui fare satira, come dire, no? Avete sentito quello che è successo a Copenaghen? Avete visto dove scusate la pronuncia danese, Abdel Hamid El Hussein, ecco, si chiama così, io il danese non lo pronuncio molto bene, ma è danese questo signore, questo ragazzo di 22 anni, come dire, di chiare origini celi, svedesi. Finniche. No, perché io ho ingaggiato su Twitter questa battaglia agli ottusi che non capiscono e continuo a dire sentite allora come ha detto Lars Vilk, tu lo conosci Lia, questo che è il vignettista. Ma viene in vacanza a Rimini ogni tanto, quindi probabilmente l'ho incrociato sulla spiaggia. Smettila, perché non si capisce mai se dici la verità, magari è vero. In questo caso potrebbe essere anche Lars Vilk, che probabilmente in gioventù sono stata abbordata da un norvegese, la situazione è ribaltata rispetto appunto a quello che succede a Rimini di solito, in cui sono i riminesi a abbordare la scalina. Vabbè, ma e com'è andata a finire? È una storia molto romantica. Te la racconto in privato. Va bene, me la racconti in privato. Comunque, il vignettista svedese che è scampato probabilmente da lui il bersaglio dell'attentato a Copenaghen, ha detto questa frase che riassume quello che io dico da mesi agli ottusi che mi rispondono poi su Twitter e non capiscono. Eccolo qui, dice: io sono blasfemo e varie volte anche nei confronti della religione cattolica, ma nessun vescovo, neppure il più bigotto, sa della mia esistenza. Questo dovrebbe chiudere ogni discorso sul grado di intolleranza di un certo Islam. Eccolo qui, cara Lia Celi, dice qualcosa di così sconveniente questo Lars Vilk? No, d'altra parte non possiamo, se cominciamo a confrontarci con chi è chiaramente squilibrato, fa della religione un alibi per sfogare la sua frustrazione, la sua follia, non si finisce più, insomma. Io penso agli induisti che hanno 300 milioni di divinità attive, se cominciamo, cioè non si, probabilmente anche involontariamente, quando uno fa un disegno mentre telefona, disegna un qualche sì, dio induista, anche senza volere, perché con 300 milioni di divinità non si scappa, però non siamo stati non abbiamo avuto ancora attentati da parte dell'induista. Appunto, no, no, ma Federico, però attenzione, però adesso, siccome l'argomento è molto scottante, do la palla a te, Federico, fai quello che vuoi, di quello che vuoi. In questi 20 minuti avremo offeso diverse divinità, tra cui la divinità Egida, che conoscete benissimo. Sì, forse gli antichi greci potrebbero farci un mazzo così, venire qui, non so. Gli antenati di Tsipras avrebbero motivo per venire a sgozzarci se leggessero. Come ti muovi, sei finito, capito? Esatto. No, i greci si accontentano se gli condoniamo un po' di debito. No, perché voglio dire, mi danno del pazzo, mi danno del fanatico, ma voglio dire, Federico, abbiamo un problema con alcuni di una specifica religione oppure no? Guarda, lo so che sono cose più grandi di noi, però sì. Voglio dire, l'insegnamento di Oriana Fallaci, il fatto che quando succedono queste cose ritorni, no, e venga abbracciato da diverse persone, spesso nell'ombra, spesso molti si vergognano di dirlo, però io penso che bisogna dirlo con coraggio, che oggi, perché poi le crociate l'abbiamo fatta anche noi, certo, ma qualche, però abbiamo fatto due anni fa. Oggi non tutte le religioni sono uguali. Questo significa che tutti gli islamici sono terroristi? Ovviamente no. Ma questo però, ovviamente non l'abbiamo mai detto. La maggior parte dei terroristi sono islamici, un motivo ci sarà. Questo secondo me bisognerebbe fare, sai, quando le coppie litigano vanno dal consulente di coppia. Sì, noi da chi andiamo? Da l'Egida dell'ONU. No, l'Islam e il cristianesimo dovrebbero andare da un consulente e in qualche modo sciogliere questi conflitti che hanno da tempo, smettere di litigare con un consulente esterno, a capire, no, ma guarda, no, ha ragione lui su certe cose, ma tu però ti comporti male. Certo, vabbè, andiamo a fare la terapia di coppia tutti, una coppia di religioni litigiose va assistita. Però entriamo in due e usciamo in uno, va bene, no, andiamo al traffico che è meglio. Pare Milan, avanti va, o strappaco! 24 mattino. Certo che alla Camera si sono arrabbiati perché gli hanno dato i tempi contingentati per lavorare. Una volta che capita che devono lavorare, recuperano tutti i giorni che non lavorano mai. Ma che non dessero fastidio e lavorassero un po' fino alle 3 di notte. E meno male, almeno una volta che si guadagnano lo stipendio. Renzi, Pinocchio. Boschi, Pinocchia. Siete un governo di Pinocchi e Pinocchi sono tutti i giornalisti che vi fanno fare i Pidocchi. Alessandro Milan, fuori croccantissimo, dentro morbidissimo. Ciao! Ciao caro Alessandro, volevo dirti semplicemente questo, che mentre i consiglieri comunali di Agrigento si riuniscono per disciplinare l'utilizzo delle salviette nei bagni, la giunta provinciale di Trento ha lanciato un piano chiamato Trentino Trilingue per l'insegnamento di tre lingue che va dall'asilo all'università. Hello, this is George Clooney and this is Amal. Hello! And Alessandro, everything is going tutto bene with them all. Tutto bene, okay? Everything tutto bene. Goodbye. Grande Giorgia, avevamo chiesto di sapere a George Clooney, che ci manda ogni tanto dei messaggi, se andava bene con una mala. Un grande scoop di 24 mattino, Federico Novella, questo neanche voi a mattino 5 ce l'avete, eh? Davvero? Tutto bene? Sì, era George Clooney, ogni tanto ci ascolta anche lui, listening to 24 mattino. Certo. E gli ho chiesto... va d'accordo con Amal, era lì vicino a lui. Infatti, quindi... gli ho chiesto, facci sapere per favore notizie, siamo un po' preoccupati, e tutto bene, fantastico. E se vuoi te la do in esclusiva a mattino 5, va bene, ti taglio l'audio, te lo mandiamo, abbiamo fatto... Hai paura, hai dubiti delle nostre fonti? No, se riesci a fare anche una videochiamata con Clooney, meglio ancora, insomma, così. Dubiti un po' delle nostre fonti. Sei scettico. Scettico, quello a prescindere, figurati. Sei scettico. Allora, invece in Parlamento si litiga. Parte oggi la 90. Si litiga, ma Brunetta, il Brunetta del giorno, non posso privarmene, non posso privare tutti gli ascoltatori. Con Brunetta al giorno. Toglie il medico di torno. No, toglie Renzi di torno. No, più o meno, non lo so. Prima o poi toglie Renzi di torno. Brunetta. Che faremo opposizione a tutto campo a partire dai prossimi decreti legge che dovranno essere convertiti in pochi giorni. E se questo è il clima, Matteo Renzi, la sua maggioranza, se ancora ce l'ha, e il suo governo vedranno i sorci verdi. Berlusconi ha cambiato idea tante volte nella sua vita politica, ha cambiato idea anche stavolta, mi dispiace essenzialmente per lui, però Berlusconi ha cambiato il passato dell'Italia, non gli permetteremo di cambiare il futuro. Eccolo qua, insomma, questo era il ping pong, i sorci verdi contro Berlusconi, ma lì a Celi, ma secondo te gli italiani come vedono questo? Cioè sono veramente interessati ogni giorno, noi mandiamo in onda queste cose, litigano, poi forse a Repubblica dicono che torna il sereno in realtà tra Renzi e Berlusconi. Guarda, a me fanno un po' ridere i 5 Stelle che dicono di abbandonare il Parlamento, le elezioni anticipate, perché veramente se si fanno le elezioni così ci andiamo io e te, qualche altro, insomma, la distanza ormai fra il Paese e questo tipo di politica è veramente, veramente abissale. Questo spiega anche il successo di Sanremo, perché perché il Montecitorio sembrava Sanremo con le risse, cavallo pazzo, minaccia di suicidio, mentre invece Sanremo quest'anno è stata una specie di aula parlamentare come la vorremmo, no? Con un presidente rispettato, onorevoli colleghi, cantavano a turno senza no, perché io ho la sensazione che insomma ogni giorno ci sia questo teatrino di dichiarazioni, non so, Federico, è un teatrino? Ah, ma è un teatrino, cioè, certamente un teatrino, nel senso che oggi le prime 10 pagine dei giornali, chi ancora ha il coraggio di leggerli, ma non perché siano scritti male, perché nessuno li legge più, le prime 10 pagine sono dedicate ad argomenti che non interessano a nessuno. Dall'undicesima pagina forse cominciamo a parlare di portafoglio, di cronaca, conti degli italiani, le famiglie, tutte quelle storie che interessano un po' di più. Tutti questi battibecchi, queste risse che ho visto in Parlamento sono un grande aiuto a Renzi, perché danno a Renzi il buon gioco di dire adesso faccio da solo, sistema a posto le cose. Agli italiani piace storicamente quello che a un certo punto si alza e dice io faccio l'uomo forte e metto a posto le cose. Poi si può non essere d'accordo, però il Parlamento che litiga è il miglior modo per far dire a Renzi basta, faccio come voglio, del Parlamento non me ne importa più nulla, che poi quello che sta facendo sulle riforme. Sì, ma infatti io quando dico non interessa a nessuno, è chiaro che è una provocazione, perché anche noi viviamo di politica, raccontiamo la politica, cerchiamo di capire che cosa la politica sta facendo per gli italiani, no? E mi dico, tu non racconti che c'è la dittatura in Parlamento, ma no, svegliatevi, queste cose non interessano alla gente, nel senso che se vi occupaste di cose che impattano veramente tutti i giorni sulla vita degli italiani, tutti seguiremo la politica con una passione estrema. Ma guarda, e invece si stanno accanendo, no, ma si interessa, ma si stanno accanendo per capire se il Senato da 300 diventerà di 100, cioè questo è il punto, no? Questo è il punto. Sì. Sì, no, poi è un male che la gente non si interessa alla politica, la gente si deve interessare alla politica. Ma si chiedono perché. La politica deve darci una mano. Renzi contro i sorci verdi ha detto che si provvederà di qualche gatto, e a questo punto vorrei vedere come verrà il casting, la selezione dei gatti di Renzi, perché sai, con internet dove i gatti sono veramente i principi, prevedo una cosa, quello sì che attirerà l'attenzione degli italiani, la selezione dei gatti da introdurre nel governo. Certo, i gatti, e vabbè, che dobbiamo fare? Dobbiamo lasciarci a questo punto, tu sei contento?

e poi da allora l'amministrazione versa prima a lui e poi, quando è scomparso, alla moglie, ma anche alla figlia, 3.900 euro. La figlia, tanto per intenderci, è del 1987, dunque ha 28 anni. Saluto Mario Giordano, il direttore del TG4. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Ne hai scritto su Libero, tra la rassegnazione, non lo so, il, come dire, la denuncia giusta. Ci sono anche altri casi, ma intanto la reversibilità c'è per tutti, eh? Non è che la pensione degli italiani è reversibile al coniuge, questo diciamo. Questo è chiaro, però un conto è la reversibilità di una pensione di uno che si è pagato 35 anni di contributo, un conto è la reversibilità di uno che è stato 3 anni in un consiglio regionale, quindi non ha già i contributi per prendere, cioè il problema non è il problema è il godere di privilegi che sono completamente sganciati da quanti sono i contributi versati. Questa cosa del figlio, soprattutto la figlia nubile in stato di bisogno, questa è una novità assoluta. Infatti questa è la cosa, perché la reversibilità esiste anche per i vitalizi dei parlamentari, dei consiglieri regionali di altre regioni. Io non ho scoperto, adesso mi sono ripromesso di andare a fare un'indagine a tappeto, ma al momento non mi risulta da nessun'altra parte il vitalizio tramandabile al figlio, che invece viene previsto dalla legge specifica siciliana. Questa è la novità, cioè la reversibilità che una volta scomparso l'avente diritto succede, passa al figlio, purché sia inabile al lavoro oppure nubile in stato di necessità. Però capite anche che sono formule abbastanza vaghe. Bellissimo, perché... cioè poi nubile, nubi, che la donna, perché chiaramente è stata fatta la legge evidentemente nel 1948, quindi nubile, la donna deve essere nubile, quindi mi immagino che, non so, magari abbia una relazione ma non si sposa, perché sennò perde il diritto al vitalizio. Basta dimostrare che quel vitalizio è quello con cui vivi e tu te lo tieni per tutta la vita, e così abbiamo vitalizi che sopravvivono, io cito i casi, 37 anni alla scomparsa di colui che ne aveva diritto. Questa mi sembra sinceramente una cosa folle. Io sono già per l'abolizione del vitalizio in sé, anche per il passato, figuriamoci del vitalizio che spetta ai figli. Però, direttore, noi abbiamo chiamato e l'abbiamo qui ai nostri microfoni il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ci deve aiutare a capire, intanto è vero che siete un unicum, il direttore Giordano dice non le risulta. Assolutamente no. No. Che equivale in tutte le regioni e soprattutto al Parlamento nazionale. Bastava un minimo di verifica per vedere come il nostro regolamento è identico a quello del Senato. Sa qual è il dato? Che noi siamo l'unica regione ad avere pubblicato i dati da qualche giorno, perché questa è la novità, sul sito. Ieri mi sono ripromesso proprio, aspettando questa importante trasmissione, con un giornalista attento, qual è il dottore Giordano, rispetto a tanti altri che fanno solo populismo, al dottore Giordano invece gli riconosco la capacità di approfondimento, che non è l'unicum. Andiamo a vedere le pensioni di reversibilità ai parlamentari nazionali che superano il migliaio. Anche i figli? Figli. Sì, anche figli, le nubili, tutto. Noi abbiamo avuto la capacità di metterle sul sito perché abbiamo voluto evidenziare questo, che è uno scandalo ed una vergogna. Ho capito. Io rispondo di quello che noi facciamo. In Sicilia l'assegno vitalizio è stato abolito dal primo gennaio 2012. In altre regioni come il virtuoso Veneto si continua ad andare in pensione a 55 anni, ora ci sarà il rinnovo. Io ho bloccato le pensioni, io le ho bloccate, coloro che l'avevano maturato, per l'aggancio al Senato chiaramente. Certo. Abbiamo pubblicato sul sito, vada a vedere se sono pubblicate le... questo è un primo punto interessante, Presidente Ardizzone, si fermi che così dialoghiamo. Allora intanto Giordano, abbiamo capito che l'unicum di cui si sa, perché degli altri non si sa, invece la Sicilia... L'abbiamo pubblicato. L'ha pubblicato. Allora, diamo atto della trasparenza alla regione siciliana. Diamo atto al fatto che gli scandali dei vitalizi, è vero che sono in tutto il paese. Io denunciavo l'altro giorno che in Friuli, là, al 30 gennaio, è andato in pensione il sindaco di San Daniele, ex consigliere regionale, a 55 anni. Bravo, a 55 esatto, anni è andato in pensione in Friuli, quindi non c'è, su questo ha ragione, come non esistono differenze di destra e di sinistra, non esistono differenze di nord e di sud, di destra e di centro. Il vitalizio è stato uno scandalo che l'Unione Nazionale, l'Unità Nazionale l'abbiamo avuta con lo scandalo del vitalizio. In Veneto l'altro giorno è stato riconosciuto il diritto al vitalizio al difensore civico. Il difensore civico ha fatto causa, ha avuto riconosciuto il diritto del vitalizio come consiglieri regionali, pur non avendo mai versato i contributi, perché i consiglieri regionali, seppur un minimo li versano, un difensore civico no, ma ha avuto il riconosciuto. Quindi è uno scandalo. Allora a questo punto bisognerebbe saperlo da tutti. Ecco, io le dico nel Parlamento nazionale, io non conosco sì, ripeto, certo, nomi, cognomi, i 2200 i 2200 vitalizi li conosco nome per nome, non mi risulta i figli. No, però è interessante, cioè Ardizzone, lei ci sta dicendo che se ne trova uno io lo vado a beccare. Lei ci sta dicendo, Ardizzone, che paghiamo anche a dei figli e non lo sappiamo perché. Ma perché non lo fanno sapere, mi scusi, fanno sapere, non lo so. Fanno sapere tutto l'elenco dei vitaliziati. Se entriamo nel sito dell'assemblea si vedono nome e cognome, quindi c'è un controllo da parte della stampa e da parte del singolo cittadino. Sì. Io non penso che si possa entrare nel sito del Senato, mi risulta difficile. Però i parlamentari li conosciamo tutti, cioè, l'elenco dei vitalizi. Scusa Alessandro, tanto è vero che la reversibilità del Parlamento l'abbiamo raccontata, esistono anche casi clamorosi che io ho raccontato, come quelli del senatore Guatelli, il nostro ex collega Arturo Guatelli, che non mise mai piede al Senato perché venne e subentrò quando il Parlamento era scaduto. Sì. Un senatore morì il giorno in cui venivano sciolte le Camere. Il senatore Guatelli fu fittiziamente senatore un giorno, maturò il diritto al vitalizio e quando morì andò alla moglie. Quindi la moglie del senatore fantasma prese la prese però Ardizzone ci sta dicendo che anche i figli, però mi scusi, i figli no. Dottore Giordano, ci sono anche i figli, ci sono anche i figli, ma noi ce li promettiamo di andare a cercare. Giordano, questa è una sfida, questo punto è promesso che li vado a cercare. È una sfida, però presidente Ardizzone, mi scusi, questa legge a quando risale l'equiparazione, o insomma questa legge? Parliamo di una legge del 65. 65. Si può cambiare? Si può togliere? L'abbiamo già cambiata, ci siamo sganciati dal Senato. E purtroppo la stampa nazionale non se ne è accorta. No, ma ce ne siamo accorti perché per il futuro, no. Sì, per il futuro. Ma aspettiamo la norma nazionale. Cioè non si può bloccare il vitalizio adesso ai figli. No, non lo posso fare perché poi io lo so che poi mi attaccherete diritti quesiti quando le posso dire un'altra cosa, sì. Vergognosa, che purtroppo i giornali, soprattutto quelli a tiratura nazionale, hanno fatto finta che non esiste. È stato proprio lei, eravamo in piena estate, scoppiato il caso scandaloso del vitalizio pagato a un presidente della regione in galera per mafia. Sì. Bene, alla fine mi sono rivolto all'avvocatura generale dello Stato. No? Sì. Mi sono rivolto all'avvocatura generale dello Stato, c'era l'equivoco se era reato contro la pubblica amministrazione, reato per mafia, tutti ne parlavano, tutte queste trasmissioni che fanno populismo domenicale, ecco, tutti messi in croce in Sicilia. Bene, mi rivolgo all'avvocatura dello Stato, l'avvocatura dello Stato mi dice no, ma non è un problema, dice già è previsto nel codice penale, articolo 28, sì. Come è previsto nel codice penale? Dice sì, va sospeso l'assegno vitalizio a tutti i condannati. E allora io ho scritto alla Boldrini, al presidente del Senato Grasso, inviando copia del parere dell'avvocatura dello Stato di Roma, perché non si è espressa neanche quella di Palermo. E l'ha cancellato, cioè l'ha sospeso. Io ho sospeso solo per Cuffaro, però certo. Per i condannati nel Parlamento nazionale ancora. Infatti, lei ci sta dicendo che ci sarebbero gli strumenti anche in Parlamento per i condannati, certo, perché lo dice l'avvocatura. Ma ce lo mandi il parere, lo mandi a Mario Giordano che... Sì, il codice, Poi dopo vi mettiamo in contatto. In privato glielo mando, però dico, siccome sono nomi importantissimi, sì, questi qua dei parlamentari nazionali che hanno avuto la sospensione temporanea o perpetua dei pubblici uffici, non se ne parla. Insomma, Giordano, mi sembra di capire che il presidente Ardizzone, no, ma perché il presidente Ardizzone ci dice c'è grande attenzione attenzione a tutto quello che succede in Sicilia, anche questo ultimo caso, solo perché loro li hanno pubblicati, li hanno resi pubblici, mentre ci sarebbe da scavare di più a livello parlamentare. No, abbiamo scaviamo in tutta Italia. Devo dire che la Sicilia ogni tanto ci riserva qualche chicca straordinaria del suo passato. Non metto in dubbio che il presente stia cambiando. La cosa vera che dice è che tutte le volte che si prova a cambiare sul passato, e questo è vero dappertutto, basta vedere il ricorso dei 54 consiglieri regionali della Lombardia per il contenuto del 10%, è scandalosa la difesa dei privilegi passati, perché io lo ribadisco, lo dico sempre, il vitalizio non può essere considerato un diritto acquisito, perché è una cosa ingiusta e le ingiustizie acquisite vanno abbattute anche se appartengono al passato. Questo però io capisco quando il presidente Tradizione ci può dire, io lo posso cancellare e poi dopo cosa succede? Mi fanno un ricorso, hanno ragione loro perché c'è un giudice no, che gli dà ragione, e poi dopo voi ve la prendete con me che ho provato a fare, oppure perché ho perso tempo e ho messo in piedi tutto un casino, e poi dopo gli danno ragione. Cioè lei ci conferma, Ardizzone, non si può fare nulla per quelli attualmente. No, lo deve fare il Parlamento nazionale. Se io sono riuscito a sganciarmi dal Senato e l'indennità nostra è uguale al consigliere regionale del Molise, 300.000 abitanti, sì, regione come la Sicilia 5 milioni di abitanti, e sono molti soldi, sono molti soldi in proporzione allo stato di disagio che c'è in Italia. L'ho fatto perché c'è una legge nazionale che me l'ha consentito di fare. Ma scusa, Alessandro, ma perché si riesce a intervenire sul passato di chi è dei lavoratori normali e non si riesce a intervenire? Ha ragione il dottore Giordano. Questo sì. Ha ragione il dottore è la grande domanda alla quale non esiste risposta, cioè la legge fornita ha potuto cambiare nottetempo e si sono fatte le riforme adesso e si sono cambiati i cosiddetti diritti che la gente considerava acquisiti, ma secondo me giustamente, cioè se lo Stato decide di cambiare le regole si possono cambiare, poi lo so che questo mi attirerà tanti strali, però non si possono cambiare in alcuni casi. E Giordano ha ragione il dottore Giordano, bisogna insistere a fare cambiare al Parlamento nazionale. Lo so, direttore, hai ragione, però Il Parlamento nazionale ha il dovere e l'obbligo morale e giuridico di sospendere l'assegno vitalizio ai tanti condannati per mafia e non per mafia che hanno avuto la sospensione dall'interdizione dei pubblici. Questo è un punto importante. Direttore, c'è un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato per cui di Roma, per cui potrebbero sospendere il vitalizio ai condannati. Altrimenti contestano il parere, perché il codice penale non si può applicare solo in Sicilia e non si applica nel Resto d'Italia. Allora facciamo così, Presidente, le mandiamo la mail e non mi arrendo, perché questo è un punto, io non mi scoraggio, continuo a dirlo, questo vitalizio è uno scandalo che almeno dobbiamo continuare a denunciare. Allora facciamo così, intanto ci fermiamo, ringrazio il Presidente Ardizzone e Mario Giordano, direttore del TG4. Presidente, poi le do la mail di Mario Giordano, così le manda il parere, gli manda il parere dell'Avvocatura dello Stato, secondo il quale il Parlamento deve sospendere il vitalizio alle persone che sono condannate. Non c'entra mafia, reati, pubblica amministrazione, può farlo benissimo e lo fa come ha fatto lei con Cuffaro. E allora alle 8:33 minuti andiamo in pubblicità, poi rientriamo, avremo ospite la vicepresidente del Senato del Partito Democratico Valeria Fedeli per capire se al Senato lì si sposterà tutto il casino che abbiamo visto alla Camera, perché ce n'è stato un po' di casino. Pubblicità, rientriamo. 24 mattino. Siamo qui, sono le 8:39 minuti, allora vorrei sentire William da Milano che sul tema dei vitalizi ci ha chiamato. William, buongiorno. Sì, buongiorno. Io faccio riferimento all'articolo che è comparso sul Fatto Quotidiano venerdì per un ente pubblico di Milano che è gestito dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia, è il Palazzo delle Stelline. È stato fondato, gestito e controllato anche da prefettura. Sì. Nel 2009 il Collegio delle Revisioni dei Conti nella relazione di bilancio ha fatto emergere una irregolarità degli emolumenti. Però William, ma che c'entra? Sarà un tema molto profondo. Le dico subito. Sì. Allora, i consiglieri si sono pagati 5 volte tanto quello che spetta la seconda legge. Allora io ad un certo punto, che ero il responsabile amministrativo di questo ente, ho mandato la neoeletta presidente, perché tutto il consiglio di amministrazione è di nomina William pubblica, io nomina... c'è una storia bellissima, ma cosa c'entra coi vitalizi? Io, se vuole, ne faremo una, guardi, mi scusi, mi mandi una mail, perché stiamo parlando dei vitalizi in Sicilia, cioè capisco la vicenda, ma gli stipendi del consiglio di amministrazione di un ente pubblico è una cosa un po' diversa, non è che la voglio, ma guardi, il tempo corre, non... mi mandi una mail alessandro.milan@radio24.it e magari trattiamo anche questa vicenda, vi perdoni, stiamo sul tema, sennò Sandro da Brescia, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. La mia sarà un'affermazione puramente provocatoria e che non riguarda solo la Sicilia. Lo chiedo a lei, Milan, mi piace tantissimo la trasmissione. Voi a Pasqua un tacchino, un cappone vivo che si lancia nel forno, lo avete mai visto? Sì, a Natale magari. A Natale, vabbè. Chiedo scusa, misunderstanding, però con questo voglio dire, i nostri politici, tutti, lei ha citato la Fornero che nottetempo ha cambiato le regole, potrebbero farlo anche loro su loro stessi, solo se avessero voglia, diritto acquisito me lo tengo, degli altri non me ne frega Va niente, bene. In questo caso gli altri è chiarissimo. Siamo noi. È chiarissimo, la ringrazio Sandro, intanto voglio introdurre un ospite però, perché vogliamo cambiare tema e parlare un po' di politica, perché ci siamo lasciati alla Camera con delle sedute un pochino, come dire, concitate, sedute... ve le ricordate le urla? Serva alla presidenza della Camera. Alzati da quella sedia! Le accuse, fascismo, il contingentamento dei tempi. Ora io vorrei capire da Valeria Fedeli, che è vicepresidente del Senato del Partito Democratico e che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Succederà anche al Senato? Cioè siete pronti? Perché il clima politico è questo, mi sembra. Beh, spero che non risucceda né alla Camera né al Senato, perché vede, la cosa... che francamente non è corretta, mettiamola così, si possono fare ovviamente dibattiti molto forti, con espressioni molto forti, ma arrivare ad impedire, perché questo è quello che è avvenuto alla Camera, impedire ai colleghi di parlare, ecco, io credo che non sia uno spettacolo degno di un Parlamento. Purtroppo qualche mese fa era successo anche al Senato, durante è vero. Esattamente la riforma costituzionale. Diciamo che almeno io così ho avvertito nel proseguo poi dei lavori, per esempio sulla legge elettorale, che ovviamente ha visto nel merito una discussione molto forte, più nessuno è arrivato a quegli elementi di impedire ad altri di parlare o di votare. Però mi auguro che sia una pagina... Questo che non succeda. Le chiedo questo, dal punto di vista politico, dovesse succedere questo Aventino, come tante volte viene evocato, cioè le opposizioni che non vengono in aula, l'abbandono, è comunque legittimo portare avanti le riforme con un'aula semivuota? E diciamo che non è una bella immagine e che quindi pone ovviamente dei problemi, lo dico sinceramente, però nello stesso tempo bisognerebbe ricostruire che cosa. In questo caso al Senato la discussione sulla riforma costituzionale era stata fatta, quindi con tutte, diciamo così, le mediazioni tra gruppi che intendevano costruire insieme la riforma costituzionale, in particolare penso a Forza Italia. Quindi quello che poi è successo alla Camera in termini di Aventino, intanto mi rivolgo in particolare a Forza Italia, non è che abbia avuto un grande senso, perché Forza Italia ha partecipato a quella riforma, così come quando discuterà la Camera sulla riforma elettorale, Forza Italia ha partecipato a costruire l'incontro, la mediazione più alta possibile tra le forze, quindi compresa Forza Italia, che ha determinato il voto poi favorevole al Senato di larga maggioranza. Io capisco 5 Stelle che hanno votato contro, capisco la Lega che ha votato contro. Non capisce Forza Italia. No, non la capisco. Non capisce Forza Italia. No, ma lo dico sinceramente. No, dice, ha visto un cambiamento. Beh, ma insomma, questa vicenda. Non è comprensibile. Questa vicenda dell'elezione del presidente Mattarella, evidentemente, e la successiva rottura del patto ha prodotto. Ma posso dire adesso, so che magari sono una voce fuori dal coro, ma in realtà. Il Partito Democratico, il suo segretario e il Premier aveva sempre detto da tempo che dentro al cosiddetto patto del Nazareno c'era la riforma costituzionale e la riforma elettorale. E non il Quirinale. Non il Quirinale. Però le chiedo, il suo collega Giachetti, vicepresidente della Camera, ha detto ieri in un'intervista al Fatto Quotidiano non ci sono i numeri per la legge elettorale al Senato al momento. Poi vedremo i cosiddetti responsabili o stabilizzatori. Però non ci sono i numeri e quindi Giachetti dice meglio andare a votare presto. Lei che pensa? Io penso e spero, perché anche qui non ci sono i numeri al Senato sulla legge elettorale, dipende da che cosa succede alla Camera, perché noi l'abbiamo già votata con un numero largo di partecipazione positiva. Adesso il tema è cosa succede alla Camera, sì, perché potrebbe anche non tornare al Senato. Se la Camera fa una sua discussione, però diciamo mantiene l'impianto, così come potrebbe anche essere possibile, ovviamente previa discussione, perché essendo un altro ramo del Parlamento è ovviamente legittimo che si ridiscuta tutto anche nell'altro ramo del Parlamento, visto che siamo ancora nel bicameralismo paritario. Però anche lì, come fa Forza Italia, che ha votato favorevolmente al Senato, lì a votare contro? Quindi nel momento in cui, adesso, la dico in termini di scuola politica, sì, logicamente, avendo votato la maggioranza di governo più Forza Italia la legge elettorale al Senato, dovrebbe essere che anche alla Camera ciò avvenga. Se ciò avviene, non torna al Senato. No, ma è chiaro. Però siccome ovviamente siccome la politica fase diversa, no, cambia, lei ha sempre. Se non ci sono i numeri, è chiaro che a quel punto vuol dire che non c'è più una maggioranza, perché a questo punto quello che dice Giachetti è una cosa che diciamo prescinde da Forza Italia, e cioè non ci sono i numeri al Senato perché 24 persone del Partito Democratico, sì, sulla legge elettorale non hanno partecipato al voto. Quindi se si dovesse farsene carico la maggioranza di governo al Senato, in questo senso non ci sono i numeri. E quindi a quel punto vuol dire che cade il governo e si va a votare, non c'è dubbio. Ma questo insomma sarà storia che si vedrà. Intanto io la ringrazio per essere stata con noi. Grazie. Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato del Partito Democratico, è il momento del traffico. 24 mattino. Allora, le 8:48 minuti, intanto vorrei salutare Giovanni da Siracusa, sul tema, credo, prima, siciliano. Pronto? Sì, Giovanni, dica. E niente, io ho visto che c'è una particolare attenzione giusta, Sì. Cioè, giusta, su quanto riguarda la regione Sicilia, sugli spray della regione Sicilia, però non vorrei che questo fosse, diciamo, un ragionamento politico prodromico all'abolizione dello Stato di Sicilia. Perché adesso c'è il presidente siciliano, quindi cosa serve lo statuto? Solamente a sprecare. Invece lo statuto è una conquista politica della regione Sicilia. Quindi lei dice non toccateci lo statuto, almeno. Esatto, cioè toccate gli sprechi, magari inserite nello statuto che il reddito dei parlamentari deve essere legato al PIL, magari agli operai forestali. Invece è legato agli stipendi del Senato, anche se adesso è stato sganciato. Però le dice non toccateci lo statuto, va bene, denunciate tutto, denunciate gli sprechi, ma non toccateci lo statuto. Va bene, Giovanni da Siracusa, la ringrazio, ma è giunto il nostro momento. Ciao Italia! È il momento in cui, come sapete, alla fine della trasmissione invitiamo tutti i nostri connazionali che sono sparpagliati per il mondo, e ogni giorno invitiamo uno di voi o una di voi, e abbiamo davvero fatto un giro del mondo, Oggi so che abbiamo una storia straordinaria. Intanto voglio salutare Federica. Buongiorno Federica. Anzi, buonanotte devo dire. Sì, più o meno, diciamo. Dove sei tu? Allora, io sono negli Stati Uniti, in Illinois, in un paesino chiamato Mentino, a 50 miglia sud di Chicago. Mentino? Sì, io mi sono andato a documentare, sono 9300 anime, Mentino, a 40 km da Chicago. Ma che ci fai lì, Federica? Ma io sono qua a fare il mio quarto anno di liceo in una high school americana, quindi diciamo vivo con una famiglia americana, ospitante, volontaria. E niente, vado in una high school, quindi proprio come nei film, diciamo, cheerleader, armadietti. Ah, così proprio, con gli armadietti, le cheerleaders, la squadra di baseball, la squadra di football. Sì, proprio così, diciamo. E in che cosa è forte la squadra del tuo liceo? Ma noi siamo abbastanza forti a football. A football, chiaramente. Sì, a basket facciamo un po' schifo, però vabbè, non siamo male, dai. Vabbè, ma è bellissima questa cosa. Quarto anno di liceo. Quindi quanti anni hai? So che hai fatto da poco 18 anni, 17. Quanti anni hai? Sì, settimana scorsa ho compiuto 18 anni qua in America. Grande festa a Mantino per i 18 anni di Federica. E, ma perché ti è venuto in mente questa cosa? È bellissima questa cosa, ti apre la mente in una maniera incredibile. Diciamo che è un'esperienza che consiglio a tutti di fare, perché soprattutto a quest'età ti apre la mente e ti fa crescere. E niente, io ho deciso di farla per comunque imparare meglio l'inglese, che comunque serve sempre. Sì. E per conoscere un po' la cultura americana, proprio, cioè, non lo so, per conoscerla. E cosa, per esempio, la maggiore differenza dal punto di vista scolastico? Oh, tu venivi dal liceo, dimmi che cosa ti ha colpito in positivo, se vuoi anche in negativo, lì negli Stati Uniti. Scuola, ok, è presa molto meno seriamente che in Italia, cioè si studia molto meno. Però sono molto più, diciamo, concentrati sugli sport e la scuola è molto più tecnologica rispetto all'Italia, devo dire. E, sì, quindi così, tanto sport. E questa è una buona cosa, si studia meno, dici, meno male sono venuta negli Stati Uniti. No, scherza, ma sì, battuta. Ci sono aspetti negativi e aspetti positivi, come tutto. Certo, quindi si fanno più sport, è più tecnologica, è una scuola di che tipo? Cioè, nel senso, si sta lì 5-6 ore a studiare. È vero questa cosa, per esempio, che ci sono i test a crocette, piuttosto che... Sì, non ho ancora fatto un test a domande aperte, sono tutte... crocette, multiple choice, diciamo. Multiple choice. Sì. Abbastanza più facile. Ma tra l'altro, che ore sono? Cioè, lì è notte. Qua sono le 2 di notte, sì, quindi potarduccio. E tu sei in piedi per noi, ma è fantastico. E domani? No, domani non c'è scuola perché è il giorno dei presidenti. Ah, quindi. Giusto, quindi è festa nazionale, per cui puoi dormire. E vabbè, ma ti hanno almeno coinvolto nello sport? Cioè, fai qualcosa? Ma sì, gli sport vanno a stagione, quindi ho fatto la prima stagione, ho fatto cheerleading, che è fantastico. Cioè, l'hai fatto proprio? Sì, sì. Vabbè, bellissimo. E cosa si deve fare? Cioè, è ginnastica poi, cioè è una cosa... Sì, è un tipo ginnastica, è un po' una cosa particolare, diciamo, ginnastica più tipo fai questi cheers, che sono tipo degli urli durante le partite di football per incoraggiare la squadra. E adesso sto provando a fare soccer. Che c'è il calcio, bellissimo. Ma c'è il ballo di fine anno, quello che si vede nei film? Sì, in realtà ci sono 3 balli. Ce n'è uno all'inizio dell'anno, uno a metà anno, che è passato da un mesetto, e poi c'è l'ultimo, che è quello più importante, che sarà ad aprile, fino a aprile. E se c'è, tipo, non trovi quello che ti invita, è vero come si vede nei film, dici no, sono la sfigata, non c'è nessuno che mi invita, il ragazzo. Ma, vabbè, poi arrivano tutto tutti vestiti come dei pinguini, tutto così. Sì, la prendono molto sul serio, ci mettono tipo già adesso stanno cercando i vestiti, tutti da principesse, tutte queste cose un po' alla grande, diciamo. Vabbè. Però vabbè, non bisogna andare per forza con qualcuno. Ah no, questo no. Federica, dove sei tu in Italia? Da dove vieni? Io vengo da Como. Da Como? A nord di Milano. C'è Filippo Aureggi in regia che esulta, è di Como e quindi ha fatto un'esultanza tipo un touchdown della tua squadra di football alla scuola. Vabbè, e che ti dobbiamo dire? Manda un messaggio da lì a tutti i ragazzi della tua età, soprattutto dall'Illinois, da Mantino. Cosa vuoi dire? Ma io direi fatelo, venite in America e vedete le cose da un altro punto di vista, che è molto bello. Che è molto bello. Aiuta molto. Allora Federica, ti mandiamo un grosso abbraccio, ovviamente vai a dormire, perché sono le 2 di notte, ma sei stata in piedi per noi e ti ringraziamo per questo, mandiamo un abbraccio a tutti. Ah, dillo, il tuo liceo cos'è? Come si chiama? Liceo Giovio di Como. No, il liceo, vabbè, abbiamo mandato un saluto al liceo, ma anche il liceo di Mantino. qua si chiama Mentino High School, quindi non è molto fantastico. No, vabbè, insomma, non hanno avuto grande fantasia. Comunque un abbraccio a tutti, ovviamente lì nell'Illinois, dove ci saranno meno 10 gradi, più o meno, quanto c'è? Meno 15. Ecco, vedi, ho sbagliato di poco. Meno 15 gradi. Vai a dormire. Grazie Federica per essere stata con noi. E ricordo a tutti coloro che ci vogliono scrivere 24mattino e radio24.it, se siete in giro per il mondo e ci ascoltate, avete una connessione con noi, seguite parte di quello che succede in Italia attraverso noi, scriveteci e noi vi manderemo in onda. Grazie allora a Filippo Aureggi e Peter Bescapè in regia, così come Lorenzo Nespoli lì in redazione. A domani, eh!